nessuno? Sono io, mi senti, noto. Pronto? Poi la campana ieri. Allora, mi hanno fatto le connessioni di quell'altro microfono, ma se non c'è ricezione, porca miseria. Com'è la radio? Ma cosa ti usiamo? Sempre il presi? No, aspetta. Aspetta che così ti ascolto con l'altro. Allora, che cazzo posso fare? Aspetta un attimo. No, ho fatto quelle connessioni di quel microfono nero che mi hai dato dello standard, però non c'è ascolto. Perché non c'è ascolto? Perché le connessioni sono diverse, capito? Vabbè, scusatemi, no, cosa? Vabbè, fammi sentire la modulazione, intanto poi ci vedrà. Claudio, via. Aspetta che smonto il microfono e ti ascolto con l'altra radio, poi dammi il tempo che devo commutare, aspetta un attimo. Ma tu mi fai sentire quello della standard però? Sì, ti faccio sentire quello della standard, però non ti posso ascoltare io, capito? Vabbè. Aspetta. Oh, guarda un attimino. 1, 2, 3, prova microfono standard. 1, 2, 3, 4, 5. Vedi un pochino la modulazione. Guarda un po' se è normale, ci ho appena preamplificata, lo sto utilizzando con il 48. Adesso commuto e ti devo ascoltare, aspetta, Vai qua. Non è buona, è buonissimo. Cerca di tenerlo leggermente, non molto attaccato alla bocca, è molto forte come radio, sembra un microfono quasi preamplificato. Va bene. Adesso lo provo con la camera eco, dai, vediamo se ce l'ascolto lì. Prova a vedere. Dammi tempo, che devo smantellarne uno per vedere l'altro. Via. Ora, 1, 2, 3, prova. Va bene lì. Ora, però non lo posso utilizzare nel 48 normale. Cerca di metterlo da una parte dove lo puoi usare, capito? Però la radio è buona, sia come prima anche senza l'eco. No, qua lo posso utilizzare solo con l'eco. E dove lo stavi utilizzando prima non si può fare niente. È buona come modulazione sulla LAN 48. Sì, però con questo con la... Ma stai iniziando? No, io non sento i mischi. Sì, guarda. Io non lo sento. Aspetta che provo altro. Ora, prova a parlare, Cla. Questo che microfono è? Cos'è questo microfono che hai usato adesso? Sì, ora, anche qua vogliamo fare... perché si stacca. Questo è l'originale, Sì, più o meno sono lì, sono dinamici tutti e due. Più o meno sono lì. Forse quell'altro è più corposo la modulazione, quello è la standard. Vabbè, però non capisco perché ha le stesse connessioni, in uno va bene e nell'altro no. È molto strano, Vedi, qua ho delle connessioni da riprendere. No, posso dire, in uno funziona bene, nell'altro no. Viene Antonio, li vediamo assieme, tanto ormai mi sono rotto le scarpe. Aspetta un attimo, cambio il microfono. Ora. E questo, Cla, com'è? Bene lo stesso, 5 è perfetta, non è amplificata, va bene. Però non puoi fare un paragone dal dinamico a questo, dai. Ma dinamico di solito c'è un po' più di acuti, rimane un po' più alta la modulazione. Questo è, c'è tonalità più medio-bassa, tutta lì la differenza è, però va bene lo stesso. Un attimo, scusa un attimino, cazzo ci sono... Allora, scusa, Cla, niente, questo è normale. Di che radio però? Nella mia, dove ho il più 5 attaccato. nel 48, dai. Ok, sempre il 48, quindi. Questo va bene, però come ti dicevo, le tonalità sono medio-basse, mentre l'altro che ho usato prima, le tonalità sono un po' più alte, e basta, la differenza è tutta lì. Però vanno bene tutte e due, capito? Torno, aspetta un attimino, scusa. Ma no, cosa vai oggi? A Montecitorio oggi? Adesso rompo il telefono. Ti rifaccio, prenditi in considerazione questa, la modulazione, riattacco l'altra e mi dici qual è meglio, così io in base a quello che mi dici faccio le connessioni al microfono, capito? Ok, cambia. Allora, l'altro è questo, l'altro è questo, però non ti posso sentire, devo cambiare, vabbè, accendo l'altra radio, vedi un pochino, dai. Allora accendi l'altra radio perché questo ti ho detto come prima è più, la modulazione ha una tonalità più alta, quindi io preferisco più questa dell'altra. L'altra è corposa ma i bassi, troppo i bassi, questa c'ha più acuti. Ho capito, però non so, devo vedere un pochino perché se... Allora, praticamente questo microfono va molto bene con la camera eco, in accoppiata con la camera eco, e riesco sia a parlare che, come si dice, che ascoltare. Mentre invece con questo, che sto utilizzando ora, senza camera eco, praticamente dovrei fare le connessioni anche per l'ascolto. Adesso ricambio, dai. Se ne decide tutti, questo è superiore all'altro che hai usato, non di molto, ma è superiore, la modulazione è più forte. Va bene, così è troppo forte, è vero? No, no, va benissimo, alla grande, non troppo forte. Ecco, va bene, è entrato anche uno, non lo ascolto, io ho messo in ascolto l'altro senza antenna, quindi si può immaginare. Fai entrare. Ehi, Massimiliano, ciao Massimiliano, avanti. Buonasera, Tino, mi non ti fidare, mica, c'ha le orecchie un bel pelose, che è diventato anziano, Claudio. Già lo so, Massimiliano, ciao, come mi ascolti? Questo è un dinamico, con il 48. Perfetto. Lasciamo questo, allora. Meglia. Poi lui che è esperto ai microfoni, lui proprio, perché io prendo sempre le direttive da lui, quindi è poco a dirmi, Lui è proprio più esperto di me ai microfoni, perché lui su tutte le radio non c'ha un microfono originale, prende sempre quelli dinamici, quelli ad alta impedenza, capito? Proprio per avere qualcosa in più. E questo rispetto al microfono normale ha un po' di spinta in più, la modulazione è più corposa, più buona, anche perché è un dinamico. Di quei vecchi standard che sono AM/FM, capito? L'ho trovato dentro l'armadio. Va bene. E beh, Massimiliano, bella la cameretta, L'ho già detto, Gaia, contenta? Sì, secondo te, contenta può essere. Per me tra già riempito la scrivania tutta di pupazzi. No, ancora no, ancora è vuota, deve pulirla, no? Non è che ci mette la roba così, no? Sta ripiazzata al sola. Hai visto? Vabbè. Adesso la pulisci poi lì, vedi lì con la base, lì lei può studiare, può fare, può mettere anche un televisore, certo, non molto grande, se no gliel'attacchi a parete. Ma per il televisore mi hanno lasciato ancora due mobili imballati qua, perché glielo ho detto io. Devo decidere dove metterla, ma la metto di fronte al letto la televisione, capito? Vabbè. Ascolta qui. Sì, la scrivania, quella va bene per mettere la radio mia. Quella è bella, è fatta, sì. Una bella base. Sentite come volava come. Sì, mettigli la parete, Massimiliano. Parete, quando è coricata la vede davanti, capite? La segni e la metti a parete come ho fatto io qua. Io l'ho attaccata a parete, quindi ce l'ho di spalle ma non me ne ha fatti nulla. Quando guarda la televisione, se non mi giro ogni tanto a Baidu, se la cosa mi interessa. Certamente che sì. Qui sto usando un 48 con un microfono. È un dinamico, adesso vabbè ho cambiato, questo è il più 5. È buona anche questa, va. Questo è il classico abbinamento che ho sempre avuto da quando ho iniziato a fare la radio, 48 con il più 5 posizionato sempre 1-2 di tuni e 5-6 di volume, se no magari prende troppa lunghezza. Adesso che c'è Massimiliano, togli i littoni, mettili a zero. Eccolo qua, così i littoni sono a zero. Massimiliano, già dici tu. No, non va bene. Prova a metterli a uno i toni, a uno T. Allora, questo è il passaggio numero uno, questo è il passaggio numero due a toni 2. Le toglie, come si dice Massimiliano? Praticamente li dà più medio bassi, no? A uno la preferisco però, Tino, Questo è il passaggio numero 2, guarda, 1, 2, 3, prova, adesso te l'abbasso, e questo è il passaggio numero 1, magari cambia di poco, però cambia. No, no, cambia di molto, non di poco. Tu cambia un bel è più bella così, scusa, io l'altro giorno la volevo provare, poi mi sono così è più bella, ti c'è più acuti. Aspetta però, guarda che ho il Mickey Gain che non è aperto del tutto, guarda adesso lo apro del tutto, ecco qua, è aperto, no, non di tanto però è aperto del tutto. Ecco, lascia tutto il Mickey Gain della radio aperta, e il microfono puoi lasciare anche così a 5, però con questa tonalità, quanto è la tonalità? 1? Diciamo è 1,5, dai, neanche a 2. A me va bene così, meglio di 2, a 2 ti dà troppo tonalità medio-basse, qua cioè più acuti ed è più bella, no Massimiliano? Per quello è più bella sì. Ascolta, prova a tirare su ancora il microfono, portalo a 6 a vedere. No, diciamo che qua è a 6,2, dai, perché me l'ho messo, come si dice, l'ho segnato con un pennarello, adesso lo porto a 6,5, così 6,5, così a 7. Questa è bella così, a 7 è bellissima la radio. Aspetti, ma regolazione non abbiamo fatto di questo microfono, ma non ci stare a 1 come toni, a 7 come potenza il Mickey Gain al massimo, che sto pari con un gappa. Ascolta, guarda che da quando abbiamo fatto questa tonalità di microfono ho preso il pennarello e ho segnato, come mi hai detto ho lasciato, quindi non sguatterare. No, allora ho sbagliato io, perché abbiamo fatto le prove col baracchino, io ti stavo ricevendo col baracchino, col capo è tutta un'altra cosa, lascialo a 7, cambia il puntino, mettilo a 7 e toni a 1, non c'è bisogno neanche di pasticciare niente, a 7 e toni a 1, è fantastica così. Così è bella, sì, è veramente bella, poco fa era un po', forse no, sarò io che a me mi piacciono le radio un po' forti, però nel senso così è proprio bella. Lasciamola così, dai. Io addirittura quando ce l'avevo a casa ce l'avevo a 9, guarda, adesso lo faccio tanto ormai, posso dove. Ecco, questa è la volazione che avevo prima, magari cambia molto, Non ti credo, a me piace quello così la verità, Anche a me però, ma tu quando c'è casino lì cosa succede? Ho ben preficcata. La puoi lasciare a 7, è perfetta a 7. 7 e toni a 1, ma perfetta veramente, ottima. Come hai fatto, aspetta che passiamo. Ecco qua. Calcola che adesso non c'è nessuno, sono da solo in stanza, la stanza è grande, quindi calcola quando c'è magari la televisione accesa, i bambini che stanno urlando, raccoglie tutto. Vabbè, calcola anche che non c'è gente nei canali vicino, che se no non farei di più questa radio tua. No, qua già parlo, dove abito io già parlo. Ah, ecco. No, lui è all'interno, Massimiliano. E come puoi essere tu, però lui è molto più inoltrato, no? Non è meglio a golpi dalla terra su. Le dà, si attacca, ma non è meglio, tranquillo, solo che abita, è molto distante. Sì, lascia la 7 e toni a 1, Ottino, perché è veramente molto bella. Io le prove abbiamo fatto, mi ricordo, avevo l'airbag, anche se ha una bella ricezione, però col K è tutta un'altra cosa, ti ascolto veramente molto bene. Oh, avete parlato in due, passava un po' uno, un po' l'altro, avete lo stesso segnale. Perché siamo due potenze. No, stavo dicendo che se mi dovessero splatterare, faccio chiudendo una prendo l'altro, non è che con l'altro già non mi splatterano. Lo so, però io un po' di 48 ce li ho avuti, la verità si dica, ma parità radio la giocate voi a tutti. più manco vedere manco uno di 48 qua dentro casa. Queste radio qui sono tutte una calcuba. E mica, già lo sai che c'ho io vicino di casa, quindi l'altro giorno vi ho ascoltato, era pompente, però io nel canale 10 tranquillamente ci parlavo. Sì, quello sì, vabbè, sono compagno per fare prove in altre bande, però, quindi non nella 27. No, il 27, il canale 20, io con questa radio qui non sentivo nessuno sblatter, niente, zero completamente, questa non le prende colpi, Non lo so cosa stai utilizzando. Sto utilizzando un Tornado 4005. Ah, ho capito, vabbè, è già più superiore soprattutto di questa, non è che... Sì, ma sta cupa, Io ce l'ho la 48, è Antonello Pomponio, me lo accende ma lo spegne da solo, però non lo usa mai. Mentre invece con l'Herbers, con l'87, con il Superstar, con tutti gli altri non lo sento neanche se si sposta al 20, io sono al 10, capito? Ma là in 48, me lo accende e me lo spegne da solo. Allora, tu pensa che così nel 45, no, quando si fa un po' di casino, propagazione, palle varie, quando avevo il 48, che c'era qualcuno da Sassari o Gigi lì da dove abita lui, lui non parlavo più neanche un canale. Ma a me mi ha detto proprio Gigi che con la 48 ho sentito ormai la Sassari, figurati. Ma è normale perché è così. È così, c'era anche Gianni Piorum, ma non lo usa mai, lo usa solo quando siamo magari tutti in un canale, ma quando noi siamo sul 10 e nel 23 c'è QSO, non lo può trattare, assolutamente. Ho già verificato anch'io. Della radio, ma è da macchina, non c'entra affatto, assolutamente. Invece con le altre non sento nulla, capito? Nulla. Vabbè. Comunque ti lascio stare così, a 7, e il tono lo lasci stare a 1. Sì, no, così non ho toccato niente. Adesso ritengo, vedi. Per dire, c'è mio figlio qua, la televisione la sta utilizzando, però fa su volume. Magari si sente un pochino sto a fondo, non lo so. Ehi, la mia è a basso volume, se per non sentire niente mi devo chiudere la porta, ma io la sento a basso, la televisione è una cosa normale che si senta poi, basta non si tenga basso, ma la televisione non me ne frega niente. Sì, ottima radio, va bene, che bene. Vabbè, dai, adesso niente, devo aspettare che trovo qualcuno per la pulizia, non per la pulizia, per la registrazione dei trimirini del presidente, perché è accessibile che con un vatto va la radio satura, meno che gli piazzo il più 5, però non va bene. Tutti, ma le prove le abbiamo già fatte, anche se qualsiasi microfono metti lì, c'è questa saturazione. E per conto mio, hanno spostato qualche trimerino sbagliato della media frequenza. Mi ti ripeto, quando Fabrizio è a posto, che ha tutto in ordine, eccetera, che ha finito il lavoro che sta facendo, glielo porti, lui lo attacca alla validatore, capito? Lo mette la sondina e te lo para tutto, te lo mette a posto, perché hai visto quello di Franco come esce bene. Il tuo, anche a un watt esce satura, hanno spostato qualcosa. Lo so, vabbè, cosa ci posso fare? Anzi, ti ripeto che era bianco dal lucido che c'era all'interno, gli ho comprato il prodotto e gliel'ho lasciato agire per un po', gliel'ho rispozzato 2-3 volte, poi l'ho soffiato, insomma, qualche cosa, un po' di pulizia gliel'ho fatto. Fettino non vuole spendere soldi, se no l'avremmo mandato a Francesco. Se lo manda a Francesco. La domanda è Francesco, devi che mi ha già visto, bravo, avete in baracchini quello è quello che modifica le radio un po' a tutti, ma non è neanche caro, Massimiliano, se tu consideri cosa ha fatto al base mio VEU, cioè non è caro, assolutamente, molto, ma molto onesto. Lo sai che cos'è? Ci vogliono 12 euro andare, 12 euro a tornare, più il lavoro, cioè, non so quanto ne valga la pena. No, ma non ti preoccupare, Massimiliano, no. Già va bene così. Quando sarà aspetto e me lo faccio fare da Fabrizio. Kappa. Sì, conferma, diceva quello, si conferma, ma infatti lui adesso deve avere un po' di pazienza perché Fabrizio ha ancora delle cose da sistemarsi a casa sua, ma appena terminato tutto, lui è un po' tranquillo eccetera, che ci vorrà un po' di tempo perché ancora già ne avrà da mettere a posto lì, porca miseria. Glielo dai e te lo metti a posto. Sui due gradi di Marlon Brando, come c'ha a fare lui, lo mette sotto strumentazione, dicevo la strumentazione, sì. Perché lì per conto mio hanno toccato qualche media frequenza. Sembri proprio fuori frequenza quando parli, capito? Perché se tu lo attacchi, io te lo dico con certezza, perché le prove con quello abbiamo fatto sempre baracchino e baracchino. Ma col 440 praticamente se io vado a centrarti e sento bene la modulazione, quella radio è spostata, ma quello lo puoi fare anche tu col 440 tuo senza antenna. Ti metti le cuffie, metti l'attenuatore, cuffie, attenuatore, senza antenna, e vai piano piano a muovere le UFO fino a quando non ti senti chiaro e ti accorgi che sei spostato. Per conto mio è così. Sì, vabbè, io non fa niente. Adesso vediamo, appena abbiamo la conferma dell'incasso e poi ci vediamo. Eia, va bene. E quindi Massimiliano, ma hai detto che vieni a mani a di nuovo a piazza la gameletta, quella sei giunta a mezzodì? No, sono venuti alle 9:30. Sono andati via che erano le 2. La Madonna, vabbè, piani contro i piani, l'ho visto. Molto bello anche il colore. Ascolta, la porta messa? No, claro, negativo, non l'ho messo ancora. E adesso sabato la metterò. E già va bene, dai. Già va bene. Ok, la giornata anche oggi, ma domani sicuramente dovrò andare al funerale di Luigi, quello che ha avuto l'incidente lì a Pedania ed è caduto con la moto alla rotonda, quasi 50 giorni di coma, ha venuto in moto. È un casino. No, claro, mancano ancora qualcosina qua, nel senso che nella scrivania mi manca la sedia con le rotelle, quella classica, là. Poi nel comodino, nell'altro comodino ci vogliono le quattro rotelline che sono dimenticate. L'altro mobile non l'ho fatto piazzare perché adesso sabato vado e prendo la previsione. No, non io la metto quello di salotto, grazie a tuo comando. Io la prendo un 32 pollici per qua, perché va bene, a voglia. Sì, sono quelle 32, anche più piccola. La parete, schermo piatto, non c'ho io qua, io c'ho quello che avevo prima nel salotto, ci bugato rubiato, me l'ho attaccato a parete con i due tassilli, capito? Non prende posto né niente, una canaletta piccolina per non vedersi i cavi come ho fatto io, canaletta bianca, che sia a posto, va bene, ottimo lavoro per la truppa. Cazzo, va quella mamma in cameretta e la visione è una cameramanda, perché quella lì è più grande della tua. Beh, cazzo, la mia sono... Quanto sono? La mia sono 14 metri quadri e questa è quasi 22. Tu ma non ci avete pensato a fare il cambio, scusa? Visto che era vuota, ti portavi la tua lì e lì li mettevi la cameretta nuova dove vedi tu. No, perché quando sei più piccolino sei più vicino, capito? Ah, così è. Già va bene allora. Avanti Tino! Sto uscendo un po' di testa a mettere il capo spiralato perché in posizione ottimale, che è un po' messo male, comunque già va bene, sono riuscito. Niente, mi hanno chiesto a proposito che sta vedendo Manto V1, però nuovo, No, ma qua c'è sei? Non c'è nessuno. Guarda, l'unico che può avere la Mantova 1, ma sotto ordinazione, sicuramente è Ore, grazie. Lo sai dov'è? Sì. Qual è? Quello che c'è in curva? A Pedanieta, dove vendono le antenne, diciamo. Sì, nella curva, dove una volta c'era Portobello, lì. È l'unico, è lui. No, a me me l'aveva portata Mario Babbo Natale da Mantova. Era lì e... di vicino che stava scaricando, è entrato, c'erano, capito, in questo negozio lì a Mantova, il capannone lì a Mantova c'erano, ne aveva portato quattro, capito, e una me l'aveva portata lui, la invece la parte fa la 5, io ho la 1 di nuovo. La 5 l'avevo comprata da Grassi, però sotto ordinazione. Ah, ho capito. No, c'era uno su Facebook che stava dando roba di magazzino, nuova nuova, tra... poi l'ho contattato, gli ho detto quanto ne avevo, perché glielo sai quando sento Walter, fammi portare due o tre, che poi ti dico una non batte, due o tre, e poi invece non ha dato più risposta questo qua. L'ho contattato anche io quello, Tino. Ah, e beh, 120 ne volevo, quanto viene volevo? No, negativo, 70. 70 euro una. Sì, ne aveva due avanzo di magazzino, però quando l'ho chiamato io li aveva già tutte e due latte. Perché io, la verità, io ce l'ho uno a casa, eh. Se ritrovo un'altra uno, ripiazzerò l'altra uno. Anche me la tengo lì da una parte, però secondo me la mantengo la uno è una bomba. Anche io la uno. Addirittura la mia prima antenna è stata la 1, poi ti ricordi che là quel, mi sembrava un pezzo, ma aveva tutto quello della la 5, che ci mancava un radiale. Poi ho procurato la 1 quasi nuova, pochi mesi di vita, l'ho riceso la 5 e ci ho messo la 1. Guarda, io ne ho recuperato la turbo, perché con un lineare l'avevano sciolta, me l'ho piano piano tutta rifatta e me l'ho venduto, però non sono stato contento di vendere quell'antenna, me l'avrei tenuta. Vabbè, no, questa qua già è in ottime condizioni, se Dio vuole. La prima l'ha fatta intorno ai 25 anni, quindi... E qua c'è già una ventina. Allora, già va bene. Poi vabbè, noi, io perlomeno non è che utilizzo grosse quantità di lineari da scioglierla, quindi... Male. È male. Questo abbiamo, questo ci passa il convento. Grappa, grappa. No, io già l'ho bucata la mantova 5, non ti preoccupare. Un dia del 922, a me si era gibuccata, stavo accordando, mi sono accorto per un FM, avevo buccato il coso della regia, ma una delle prime. Adesso, allora io, a me quando l'ho comprata, quindi 4 anni fa, l'ho cambiata dalla Mantova Turbo, ho rimesso la Mantova 1 anch'io, prima avevo la 5, poi la Turbo, poi di nuovo la 1. 80 euro me l'avevano portata OT. Ho capito. Aspetta un attimino, scusa, che mi sono chiamato. Io ho anche un paio di radiali, mi sembra, di quella. Io ce li ho i radiali dell'altra. L'altra la giovata qui, anzi, bugia mia. Gli altri piantoni, i piantoni mi erano rimasti e ce l'ho uno ancora. Però i tubi li avevo attivati a Fabrizio, ci aveva fatto un'antenna. Un'antenna verticale. Faccio i radiali sia in alluminio della Turbo, che vanno bene anche alla Mantova 1, e sia gli altri. Un po' rovinati, vogliono carteggiati, è dato appena di coso, di aggrappanti alla resina, dai, che c'è un prodotto che mi aveva detto Vannino che lui lavora alla resina, che c'è. Guarda qua, io la verità ho fatto male l'altro giorno, sarà più o meno un mesetto fa, mi è proprio scappata di mano quell'antenna, se no me l'avrei presa, va. È proprio avanzo di magazzino, è scatolata, nuova, mai usata, niente, quanto va uno, 70 euro più 15 di spedizione, ha giovato male a pigliarla, ho detto, aspetta un giorno, non staranno tutti comprando quell'antenna, l'indomani sono andato a contattarlo, la mattina l'aveva venduta. Sì, perché non è detto la prendano solo i CB, perché un radioamatore quello la può usare per... circuitata, modificata, può diventare una verticale, capito? Come c'era il rabbito di un periodo. Va bene. Che lavora sotto multipli, 7, 14, 21, 28, quindi va benissimo. Perciò, ma io 80 euro senza fare il trasporto perché me l'aveva portata sull'articolato Mario. Era lì in quella zona e l'ha presa. Mi ricordo, mi avevo fatto portare due, una ce l'avevo data, non me la metto. Mi ricordo, Giampaolo avevo là, la buona immagine Giampaolo Silvestro, non abitava, quando mi non fatta, non gliel'ho fatta più piazzare. Peccato. No, non me ne ho già fatto, mi apro questa radio, mi sistemo questo smitter, perché non sta funzionando. No, io quello là non lo tocco. Non lo tocco. Volevo riprovare a controllarmi il typho, ma la società uscita tutto già a posto, tutto già dentro là, ho tolto tutto di nuovo. Barattini ho tutti provati, adesso sono tranquillo e sereno che sono tutti a posto. Bella modulazione anche quella del superfare, ieri ho fatto la prova, mi continua. Il cobra dentro l'armadio, fuori dalla cassetta, il bodyguard, tutto a vuoto per non prendere freddo. Per il più 3 sotto già c'è scritto, c'è una C, cobra, capito? Sì, adesso qua quando mi sistemo tutto qua, me lo metto anche io il cobra, ce l'ho anche io col tarne più 3. Già abbinato e tutto, capito? E niente. Non lo so, se in caso mettetelo in macchina quello, quel typhoon, perché proviamo a aprirlo a vedere. E quando scendo per fare quella verifica che abbiamo detto, me lo metto in macchina. Tanto la busta la in macchina e proviamo a vedere. Ma mi dovranno noi tratti di radio invece. Peccato veramente, perché funziona alla grande, ma per stare ogni volta a darla a prendere la colpa, alla fine ci rovina. Quella è una saldatura a freddo così, capito? E adesso lo stesso. No, il segnale, Claudio, volevo dire, il segnale di questa, la radio, lo segna bene. E che quando modulo io non sale a metà, si ferma, capito? Quando moduli tu, o Dino, sale ai 25, lo segnale è giusto. Magari non riesce a superare quel limite e si inchioda. Ma già per la medicina. È vero. Certo, ti figurati, io c'ho il telefono 2 volte, una bestia a dire poco, ma è tanto buon passare radio, sia di potenza, modulazione, spedaccolto, fatto veramente con i guanti. Era sempre fermo dentro l'armadio e sono attaccendo, l'accende, però per andare in trasmissione il gatto è di cui accorpi, ma ci buco. Ma infatti, voglio dire, cioè non è che devi spendere, adesso stavo guardando tipo quelle radio Cobra, no? Però quello argentato, non tipo quello, anche quello come quello che tu qua. Però spendere tanti soldi per una radio che ormai ha i suoi anni, poi ti capita sempre questi imprevisti, non ne vale la pena. Ci fosse stato l'afflusso di gente magari per combattere, per fare battaglie, cazzo, ma non c'è nessuno, siamo quattro gatti. Ecco, c'è battaglieggi. Dilli, ma Cimilia, noi l'abbiamo preso assieme come Cimilia. Dilli quanto l'abbiamo pagato il Cobra, il Dix, la versione da 100 watt? Oltre 600. No, ma non mi interessa, ma neanche minimamente. No, ma era uno sfizio perché sono radio che praticamente erano uscite per... Io Massimiliano la sarà comprato per avere uno scopo, lo usa, il 27 va bene perché non hai bisogno di niente, non hai bisogno di niente, quando vuoi buona potenza alta, quando no potenza bassa che c'ha 30 watt, modulate la grande anche 50 ne modula, senza con la bassa potenza, quindi è una cosa allucinante quella radio, ma io l'ho usato in 10 metri Tino, perché il Cobra nel frequenzimetro va dall'1, il frequenzimetro segna 1, 2, 3, 4, sopra i 40, lui continua a segnare, capito, sempre nel frequenzimetro, continua a segnare fino a 28.805, sempre te lo segna nel frequenzimetro, quindi non hai problemi, capito? E io l'ho usato con la monobanda dei 10 metri a 28, ho usato come ti sia, una bomba, e mi stava andando quasi 200 watt, 160, 170 watt modulati. Aspetta un attimino, sto parlando, sto ascoltando la te, ascoltando un'altra persona. Devo sentarmi, che devo fare il fuoco, sentiamo dopo se coincide, mi devo allontanare dalla radio. Sì, io ti piacciono ancora. Non so se si trattiene Massimiliano o vado a fare qualcosa anche lui, ma non mi duca. Allora, si abitava al quarto piano questo, il portino, è caduto lì dove era caduto quell'altro con la moto, la rotonda, quella grande di pedalietta, ha toccato lo spigolo, fendere a guiva, ha saltato il casco, appeso morto sull'asfalto, in coma, 45 giorni o 50 giorni, quindi è morto e morto. Spesso della povaraccio. Sì, claro, anche io mi faccio una docettina, sono arrivato da lavoro, sono entrato qui, ho andato a casa, poi sono seduto mio padre a salutarlo, che una chita senza a vederlo. Fatti un conto che abita sotto, insomma, una settimana che non lo vedete. Mi faccio una doccia, Claudia, e poi un quarto d'ora, là, e poi se ci sia riprendo. Sono qua, Massimiliano, sono qua, non c'è problema. Vai tranquillo, già sono qua in quel Rix. Una persona gli ha arrivato quello nero che gli avevo mandato, fuori, giù, il continente, a Foggia. Mi ha mandato un vocale che è tutto a posto, te lo giro perché io non ci ho compreso il suo gradito. E gira, ma lo poi te lo dico io per cosa ha detto. Fammi capire qui il messaggio vocale di suo gradito, che io non ci ho compreso assai, C'è che l'ascolto. Massimiliano. Allora ti chiede, è praticamente tutto a posto, non ci sono problemi. Tra la prima e la seconda potenza non varia, i vatti sono sempre quelli, dice. E poi ti chiede, vuole sapere, se glielo vuoi far sapere, se no non è un problema. Quel filo che c'è con quell'attacco sul negativo in mezzo lì al positivo, capito? Ti chiede se è un telecomando, se è un accende e spegni, cos'è? Ecco, perché io non riuscivo a capire. Poi questa storia dei vatti, non ho compreso quanti vatti dà, quanti non ne dà. Io non ho compreso, di subito non ho compreso. 500 vatti dà. 500 vatti? Sì, però tra la prima e la seconda non c'è differenza. Inizia a cambiare dalla seconda in poi. Perché io non ho risposto ancora, Claro, non rispondo e poi mi faccio una docetta veloce, dai, poi riprendo. E spiega che cos'è qualcosa, perché non sa se è un accendispegni, un telecomando, KK. Io oggi travagliato, tu immagini già di il mio direttore generale era pugliese, quindi quando parlava sembrava che stava parlando Lino Banfi. E questo è mezzo pugliese che è a Foggia. Infatti, no, lì era di Ganosa di Buglia, proprio. Fa vedere in tutti un accento strano, ma già l'ho capito, già vuole sapere. Mandali un messaggio e spiegali che cos'è quell'interruttore. Positivo, dammi 2 minuti e poi faccio una docetta, poi riprendo. E io. Claudio? Chi è? Tu senti? Chi è? Ma si vede, io vado a portare il camera, dai, lo porto adesso, ci sentiamo dopo, ok? Se ci sei. Chi è? Ah, sai rispondere, chi è? Avanti. Oi, buonasera, Massimo Bordocar. Ciao Massimo, ben sentito, cordialità. Daniele. Cappa Rogero. Aspetta, avanti, attacco qua. Eia. Cappa Cappa, bene Daniele, com'è? Com'è? Si tira avanti, Massimi. Guarda un po' se c'è differenza da ieri a oggi. Questo smitter non è attendibile, capito? Qua mi segna 7, però l'altro giorno quando hai provato lì con l'antenna faceva da 7 a picchi di 8. Cavalava. Te lo so, anche tu qua sei intorno agli 8, dai. Già va bene, perché ancora non posso sollevarla più di tanto, ci vogliono pali più seri, dai, diciamo. E va bene, l'importante è sentirsi, dai. Sì, sì, vabbè, è importante. Gabriele, non aiutino sotto, non te lo puoi mettere. Non ne ho aiutino sotto, capito? Non ne ho e ho paura di fare TVI con le condizioni qui adesso, capito? Bisogna che lo faccia apprezzare da qualcuno e vedremo cosa si può fare. Perché così magari la radio rimane un pochino più forte, capito? Meno male, già arrivi un po' da tutte le parti, però se c'hai un piccolo aiuto, una cinquantina di watt, Prima già ce le avevo. Anni fa già c'erano e quindi arrivavo bene un po' da tutte le parti. Adesso qua sono diventato calimero piccolo e nero. Lo so, perché ti ne fatto i cacciucci. Già si trovano ancora a poco freddo, qualcosina. Infatti, va Sibiria. Infatti, no, veramente ho dato quello e l'ho investito per questo. Capito? Dopo un po' ho preso questo. E intanto mi si stava rovinando a casa, io non c'ero mai, abitavo da un'altra parte e non faceva proprio a fare niente, perché non c'ero né da una parte né dall'altra. Ero tipo i nomadi, dai, vagabondando. Ah, ecco. Vabbè, comunque lì ancora cosa devi fare? Devi tirare su l'antenna? In teoria sì, se questa tira un altro po' la faccio viaggiare, capito? Si tira su e vediamo cosa succede, poi una volta che si stabilizza il tutto si può pensare a mettere un'altra antenna, la prendo e vediamo cosa fare. Se riesci a tirarlo un pochino più su, hai fatto 13. Perché adesso sono riuscito a far scavalcare, diciamo, oltre al tetto, tutto l'ultimo stilo. Capito? Adesso c'è uno stilo e mezzo sopra il tetto, che lo scavalca, laggiù. Poi devo sempre vedere un'altra posizione. Se si può fare, è fattibile, la metto di là, non altissima, e vediamo cosa succede anche dall'altra parte. Lì sei ancora un po' coperto. Cosa hai messo di antenna? Un arringo Massimiliano sto usando adesso. Un arringo che ho ripristinato, sistemata, tutta ben pulita, ed è lì a provarla. È in fase sperimentale ancora. Insomma, Daniele, l'arringo lascia il tempo che trova, però è un'antenna un po' uscita. Vedi, per la ringo, qualità prezzo è meglio una Energy, quella con tre radiali, una 5 ottavi, è leggera. Lo so, me l'hanno regalata questa, me l'avevano regalata, la boomerang è una ringo. E le ho provate tutti e due, però vabbè, quella boomerang è più sorda dei sordi. E anche sia in trasmissione che ricezione. Questa bene o male già, anche un quarto d'onda, ma sta funzionando. Daniele, un consiglio che ti do, una volta che tu la puoi tirare un pochino più su, mettici una 5 ottavi e va a far Napoli, spendi 70-80 euro quello che è, però una volta ci stai mettendo l'antenna sul tetto, mettila bene, cioè metti una buona antenna, ecco. La ringo, diciamo che sì, può andare, ma un'antenna, diciamo, di riserva, ecco, diciamo così. Ok, Clara, sei rientrato, avanti. Sì, sono rientrato, devo portare il cane. Ciao, Daniele. Buonasera a tutti di nuovo. Ciao Cla, ben ascoltato. Guarda cosa si è cambiato da ieri a oggi. Guarda, 1, 2, 3, 4 e 5. No, niente, cos'hai fatto? No, niente Cla, l'ho messo il massimo possibile, potevo tirarlo, dai, senza esagerare. E niente, però sono, non so perché, per l'altra antenna qua più aumentano i watt della radio. Mio Massimiliano, dove lui è esperto in queste cose. Ma qual è la radio? Vuoi 48? Eia, quello famoso. Questo smitter, questo rosmetro, wattmetro, che stanno i numeri. Va bene, già funziona tutto, dai. Basta non ci siano stazionari e poi non mi interessa. Ascolta, una curiosità, allora, tanto quella radio l'ho fatta fare io, quella era la mia, la radio. Allora, quella radio lì, con 2 watt di ingresso, di portante bianca parliamo, dava di 18 modulati, ci arriva adesso. Guarda Massimiliano, questo si sta fermando a 9 watt. Di oltre non va. Sì, ma quello c'è la regolazione dei watt però. Adesso sono a manetta i watt, guarda. Così. Guarda, aspetta, fallo, scende. Così mi sta dando 3 watt e 5 di picchi modulati. No, è possibile. Ma è la calamita passata, dai. Aspetta che qua mettiamo come la prima. No, se no si attiva l'eco. Cosa li fa? Attiva l'eco e l'eco lo togli. Abbassalo tutto, ma la radio aumenta, no? Aspetta. Si è chiarato tutto adesso, aspetta. La calamita, anche a me mi c'era attaccata una voce, ero in macchina, Massimiliano, cazzo mi c'era dovuto fermare. Allora, se lui attacca le modifiche lì e le toglie l'eco, la radio è superiore, no? Beh, normale, aumenta anche di potenza, no? Prova, Daniel, sarà buona, la calamita va, il buon baracchino l'ha fatto. Guarda un po' se sta funzionando qualche cosa, perché non sento più niente. Come non senti più niente? È attivato la modifica e la radio è già totalmente più forte. Lo so, però mi sta funzionando il parla ascolta. Abbassale leggermente il Mickey. Scusa, Pino, Claudio. Guarda questo microfono. No, brutto, sattido. Aspetta, dammi il tempo, allora. Prova così, 9 a 3. Abbassa per appena. Abbasso cosa? L'amplificazione. Ehi. Guarda un po', 9 a 3. No, solleva. Cazzo, massa, solleva, massa, come lo fa? Dovevi regolare piano piano con le mani che c'hai, cazzo, l'hai chiuso. Vabbè, allora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9 e 10. Una 8 lo puoi mettere per me. Per me a 7. Guarda così Massimiliano, è Claudio. Buona. Buona, così è buona. Cos'è? Guardami i toni. Se così va bene, 3, 4. No, mettilo, fatti sempre da 0 con i toni. Quindi sono a 0. 1 e 2, questo è il 2 che poc'anzi mi avevi detto che andava bene. Ti ho detto un pochino in fatta. Anche 1,5, 2 e toni vanno bene con quella radio lì. Confermo. Guarda così, allora così ho il watt a manetta, l'amplificazione a 7 e i toni a 2. No, il watt a manetta non li puoi mettere, devi tenere intermedi, perché a manetta ti sciatola la modulazione. Confermi, Massimiliano? Sì. Se rilasci i toni più aperti, devi abbassare l'amplificazione della radio. Cioè, al posto di 7, porta la 5. Allora, adesso ho abbassato il watt, vedi un po' se è migliorato. No, negativo. È troppo forte la radio. Abbassa il microfono un po'. Bene, dai. Adesso sto abbassando la radio, cioè il Mickey Game. No, troppo l'ha abbassato, aumenta un po'. Guarda così, 1, 2, 3, trovo il microfono, trovo il picking di trasmissione. Sì, tu fai da troppo o nulla. Un altro di mezzo non ce l'hai, no? Adesso vado, non avete niente, devo fare abbassare o alzare? Abbassare un po', troppo satura la radio. Allora, aspettate, ora se va bene così. No, così non la sento bene. Allora il microfono lascialo a 7 inizialmente, a 6, mettilo a 6, ecco, metti a 6 il microfono, i toni li metti a 1 e non li tocchi, ok? Devi abbassare la potenza della radio, non la devi mettere a manetta. Allora, questa è un'altra tecnologia di radio e non basarti a quello che stai usando, questa è un'altra. Ma che cos'è il Seat? No. Allora, per me non c'è amplificazione. No, per me sei saturo che non si capisce nulla. Per me non ti sento quasi di quanto sei saturo. Ola, ola, ola, ola. sì, sì, guarda un po', vola, vola, guarda a vedere se è migliorato. No, no, non mi piace, non mi piace, meglio l'altra. Lo so, Fla, lo so che è meglio l'altra, ma sto cercando di un compromesso. Ascolta, Oti, su quella radio non puoi abbinarlo a nessun altro microfono? Questo è un altro più 5, sono il limbo. No, io la sento un po' satura. C'è anche Daniele, Daniele, tu come lo ascolti? Io l'ascolto saturo lo stesso. Non lo metto in dubbio, ma siccome prima andava bene, sto chiedendo in che posizione andava il microfono, perché è stato spostato, quindi non so se va a migliorare o a peggiorare. Guarda un pochino adesso, si è migliorato. Adesso sì. Adesso sì. Ha migliorato. Alla grande. Se voi non mi dite se devo voltare o abbassare, adesso ho voltato l'amplificazione del microfono. Più o meno a quanto ce l'hai? Sto diventando cieco, ah, 8. Sì, più o meno come l'altro baracchino, va bene, però non tocca di fatte, va bene. Bene, Massimiliano, confermi, com'è? Ah, scusate un secondo che sento un rumore, giuro, quindi giuro, vado a vedere cosa succede. Proviamo la pistola. C'ho l'altro, quello che è come il maiale, con due buchi. Va meglio. Com'è Claudio? Questo cos'è, il Lincoln? Eia! Ma lo vedi, col microfono a tavola è totalmente un'altra radio. Buona, Pino, buona! Simile all'Aran 48, più o meno. Simile al 48 con l'MB più 5, ci siamo. Se me l'ha dato, Antonio, per quello che ho detto, ha toccato le connessioni e le ha rimesse come la prima, però non si ricordava se mi ha fatto qualcosa di senso. Dimmi un po', sei alto l'amplificazione? Proviamo, prova a sollevarla di un attacco, però sempre 1-1 vai. Adesso siamo a 9. Intermedia T, tra l'8 e il 9 mettila. Guarda così. E poi Daniele, tu mi dici se sono saturo. No, per me non sei saturo. Ascolta, e tu invece ce l'abbiamo sempre a 1? Sì, sì. Aspetta un attimino, ti aumento con la telefonata. E così mi dici se peggiora, eh. Adesso sono a 5 watt, comporto a 7, 8, modulati quasi 10. Un'altra radio sembra con quel microfono T. Perfetta! È perfetta, non sta saturando adesso. Lo so, ma come fate? Come sta andando? Posso votarli ancora, te ne metto 10, ora 10 importante fissa, eh? Inizia già a masticare la modulazione. Intanto non cambia il segnale, Tino, eh. Ti sto seguendo col 440, non cambia. Quindi non è che da 8 a 10 cambia, però a 8 la modulazione è più bella, a 10 te la smorza un po'. Aspetta, che ho fatto una cagata, guarda così. Così hai aumentato la potenza? Sì. Di quanto mi devi dire, a quanto sei di potenza, in modo che io mi posso bilanciare? Allora, adesso siamo a 10 watt, guarda un attimo solo. Te lo metto a 12, ora. E ti mangia la modulazione, devi metterlo tra l'8 watt e il 9 watt, intermedia, lì la devi lasciare. Ho ripreso, Sì, ci sono, aspetta un attimino. Oh, guarda adesso, Claudio. Ora, sarà mangiata la modulazione. Leggermente, ma non molto, abbastanza comprensibile. Se invece continua a sollevare la potenza, se la mangia. Massimiliano. No, c'ho un altro parere io, Claudio. La modulazione è buona, è che c'ha troppo forte la radio. No, guarda adesso, Massimiliano, l'ho abbassata, sto parlando moderato. Ti posso anche abbassare il watt. Diciamo che sono quasi a 10 watt. Se vado oltre, aumenta il watt, ma si mangia la radio. No, la modulazione, cioè il microfono deve abbassare. Adesso l'ho abbassato da 9 a 8. Vedi, è già più bella la radio. Ma infatti devi lasciare 8. Dal 7,5 all'8, lì devi lasciare il microfono. E i watt devi lasciare tra l'8 e i 10. Decidi tu, non devi sollevare di più. No, lui deve fare una cosa. Deve lasciare il microfono fermo. E poi provare con i watt, abbassare, sollevare. E vedere un po' la posizione giusta. Oh, allora, con il tuning ci siamo, lascio così. Tuning a 2 e il microfono è a 8. Guarda, per me lo puoi abbassare ancora leggermente. accontentato, così di meno di 8, 7 e mezzo. Così è la modulazione buona. Così va meglio. Però i toni, Tino, portali a 1. Va bene, guarda, questi 2 e questo è 1. Vedi un pochino se ha cambiato qualcosa. C'è più acuti, quindi hai la stessa posizione più o meno dell'ala 48, poni a 1 così non lo tocchi, ok, e il microfono a 7, ottimo. Ascolta, sì, rifatti, sì, a 10 hai detto. Sì, diciamo che a portante fissa fa 10-12, dai, modulati. Prova adesso senza toccare il microfono e micchiello, prova a aumentare il watt ancora. Ok, così siamo a 10. Ora, ma mi segna negativo lo strumento. Siamo a 15 quasi. Adesso sta iniziando un po' a mangiarsi la radio. Vabbè, va, io la lascio così. Ora, a 10, bene, va. Sì, a 10 va bene, però puoi provare anche verso 7, 8. Va bene, guarda, abbasso, Così sono a 8 con picchi positivi a 10. Ora. Così è bella la radio. Così deve andare, intanto non cambia il segnale, ti sto seguendo col 440. 9, 10, 6 con 10 watt, 9, 10 rimani con 8 watt, però allo stesso tempo la modulazione migliora, capito? Va bene, quindi confermate, lascio così, mi metto un chiodo. Per me sì. Non so, io per me, io ti sto ascoltando con questo tornado e per me a orecchio la modulazione è buona, buonissima anzi. È bella presente, amplificata, il segnale c'è e più di quello, secondo me. Poi già lo sai, ognuno che entra c'è una radio diversa, magari ti dirà non va bene così, non va bene così, ma perlomeno per me, per come l'ascolto, è abbastanza buona. Daniele, cosa dici? Confermo, va bene adesso. Non tocca più nulla. Mamma mia, quanto lo sento basso, Daniele. Va bene, dai, ragazzi, poi faccio altre prove se coincide a dopo, dai, che devo accompagnare a Cristian, a fratello di Antonio. Ci sentiamo più tardi, Benito, dai. Grazie dei controlli. Ma perché Cristian è lì? Sì, lo puoi salutare. Bravo, là. Senti lui come stai, come non stai, c'è una riga, non ti vedo. Sto uscendo fuori ultimamente. Che lo dici, non si esce più oramai. Abbiamo gelato qui. Ciao, un abbraccio, salutami a quel pazzo di tuo fratello. Ti la tua salute. Ma mi allontano un attimino, dai. Ciao, dopo, grazie. Ciao T, no tocchese, lascia stare tutto così, avanti Massimi. No, ma tacchese. Ok, no, ciao T, ci sentiamo. Buon di tutto, buona serata. Cambio pronto lo fuoco, siamo arrivati, no, ciao. Cosa buttiamo? A fammi. Cosa invece tu quando l'attendi che c'è il gruppo che vai lo giardino, vai in agora la cameretta? Claro, te lo sto dicendo, lasciami mettere a posto, che poi non te ne pinti, non ti preoccupare, non te ne pinti, che ci sono le belle giornate, mangiamo fuori, sotto il gazebo, non ti preoccupare, che a caso va, è un macco. Addio Massimo, se è tutto il garage bucato direi. No, ne ho avanzato un pochino, infatti mi stavo parlando di questo con mio padre. Mi scoccia a pagare, guarda, un camioncino per portarci via, questa roba finisce già là, mezzo metro cubo. Però non so dove metterla, ce la devo portare via. Ma ci vediamo. Se hai secchi di quelli in plastica, si può caricare e li mettiamo nella 600. Non è un problema, però secchi di plastica ci vuole, perché qua stanno facendo i lavori. Deve venire il camion a bugarsi tutto il garraggio, quindi due garraggi in più uno ribesa. Ma secchi non ne ho, non ne ho di quella roba così. Ma così Antonio ne ha, di garraggi di quelli bianchi, dai. No, vieni pure i garraggi, grazie. No, è cosa lui, lascia perdere. Quando adesso aspetto, finisco tutto, e poi fino a base è ripigliato. finisco tutto, qua ci portiamo il cavo del giro, ci butto via tutto, non me la fossi. Non so neanche se guarda lo marroneggio. No, no, era per farti risparmiare, così compravi più carne, capito? Se tu hai i botti, i voti, no, da me ne... No, un metro bubo, invece già ne 3 o 4, voglio dire il camioncino, perché è tutto il garaggio dei poggioli, tutto messo in angolo, quindi io i secchi li svuoto lì e poi ti ritorno, però non ne ho io. E io non ne ho lo stesso, qua, fuddittini, la pazienza. E dì la camioncino, non viene a caricare, per venire qua e se lo carichiamo, non ho problema. Tu non ti preoccupare, che la carne di bubo di non ti la mandi tutta. Vabbè, allora me la dai a me per 50 euro. E non è problema. Certo, devi finire anche il piazzale, non mi lasciare piazzare così, l'altro pezzo devi fare a cemento, è bello, eh? Ecco, e la subito, Carlo Sarà, già lo sai cosa tutto ci ho messo qua, quindi, lasciami un po', cazzo, respirare. Allora, sono con lo salvagente, c'è un buco che sta iniziando a perdere aria, mi capito? Non so mai rimango affogato. Vabbè, però ce la facciamo di Antonio un sabato quando sei pronto, quindi cemento, due righe, metto mi randendi e lo buttiamo con l'altro pezzo del piazzale, non sarà un problema, però infatti adesso rilassati, già hai fatto un bel, hai fatto un bel. Per la scala cosa hai deciso? La rivesti? Quale? La scala interna. Come la rivesto? Il tetto della scala, capisci a me, quello che avevamo detto che non ti piaceva. Sì, sì, lo rivesto, sì, sì, prendo quei fogli. No, non le piace Daniela, assolutamente, andiamo voce a fare chi cazzo mi dice, fammi questa cosa. Ma si vedi, è chiusa però, esteticamente per tutto quello che hai fatto non piace neanche a me, però lì ci vuole poco, si riveste e via, viene un bel lavoro, capito? Tutto il resto è perfetto, ma beh, abbiamo bianco, quello all'interno, un sabato, una domenica, un sabato mattina, un sabato intero. Scendo anche io, tiro la mano, si fa, si riveste. Sì, no, no, già lo faccio quello che piano piano, perché... No, se no è un casino, va. Sono, non ce la faccio, davvero. Kappa kappa. Vabbè, dai, quindi... Guarda un po' adesso, Massimilia. No, io già, io ti sento basso con quella radio. Il segnale c'è, ma la radio non mi biasi, ma oh, Daniele. Devi aprirla, ma scusa, c'è la radio là ancora sotto con l'ecco. Non lo mettere a manetta, tu, mettilo leggero leggero, ma lascialo aperto, ogni volta che tu modulo, apri le modifiche. Lo so, Clau, ma questo c'è un brutto un problema, che ogni tanto non fa non funziona nulla. Io sto andando normale adesso. Prova a passare la calamita, Daniele, passare la calamita, l'ecco, chiudilo tutto, prova. Perché non lo apri che non sta funzionando, quelle radio lì devono funzionare, se tu non le apri il sistema, non ribassi la calamita, quella radio ti si inchioda a te. Guarda un po' adesso, ecco a zero mica che è una manetta. Vedi che va bene, va meglio così, la radio è molto più forte, Daniele. È più forte anche il segnale perché dà più watt, sei 9-10 adesso. Cazzo Daniele, è mezz'ora che ti risende Massimiliano, lascialo aperto, quando moduli senza ecco, lascia le modifiche aperte, col micheghini così, come stai modulando adesso? Non so Cla, però io qua non sento più né l'altro di lei che attacca, non sento più il parlascolta, bip non ne sento più. No, il bip infatti non c'è. Stanno andando a metà delle modifiche e non capisco che malasorte li abbia preso, perché un po' funziona, un po' non funziona, poi quando la lasci spenta, per... no vabbè io li ho modulato, però quando non sei qualche giorno che non le usi, si inchiora nuovamente. Prova a dargli un colpettino sulla carcassa, prova, mentre stai modulando, prova a darle qualche colpetto. Massimiliano, secondo me è questione di qualche potenziometro che chiude, perché sento il bip alle volte che è come se fosse quasi chiuso, sordo. Però secondo me è qualcosa di cablaggio che c'è qui interno che attacca e stacca qualche modifica, capito? Che non sta andando. Lo sai che cos'è, Daniele? Che quando uno non sa toccare, il cacciavite lo deve lasciare fermo, capito? Tutto lieve. Perché quella radio è stata frugata forte. quando ce l'avevo io quella radio era una bomba. Addirittura gli avevo fatto aggiungere un finale che faceva da doppio modulatore. Fate un conto. Come finale c'è a posto 1969 c'è un'altra sigla che dovrebbe essere l'equivalente di quello. Già quello gliel'ho cambiato perché quando ce l'avevo io aveva il 1969, ma oltre il 1969 aveva un altro finale con una bobina, non so se c'è ancora. Aspetta, intanto è tutta aperta questa radio, guardo. Una bobina, da che lato era questa bobina? Lato finale? Vicino al finale, guarda che è tutta nera. Tutta nera, già c'è, di quelle regolabili o bobina normale? No, regolabile. Già c'è. Nel finale vicino, c'è attaccato. Sì, c'ha un altro finale, c'è quello grande, vabbè, quello l'equivalente 1969, poi alla sua sinistra ce n'è un altro. Ascolta, e dove c'ha il tram? Dove c'ha il modulatore? Lo sai dov'è il modulatore, sì? Sì, vabbè. Guarda proprio a fianco al modulatore, c'ha una vite. A fianco al modulatore c'ha tre variabili, tre cose regolabili. No, aspetta, non cose regolari, ci deve essere, è tipo un trimmerino che c'ha una vite in ferro, o proprio sembra che gli deve mettere il cacciavite dentro. Guarda che è attaccato proprio al modulatore, rimane sulla, guardandolo frontale, rimane sulla sinistra, però è attaccato. Forse devi svoltare anche qualche filo per vederlo. Sì che c'è, resta quasi sotto la scheda, dai, già c'è comunque, ho capito adesso, c'è. Vabbè, prendo il cacciavite, prova a vedere se al massimo quello. Aspetta che lo devo girare, aspetta. Io come sto? Posso fare un travaglio, va? E lui ha compreso già, cosa devi fare? Ah, me l'aveva fatto Gigi, il mio quello che ho, ma tanto buon, è normale mi. E appunto per quello, ma lì è stata toccata quella radio, perché mi ricordo io quando l'ho fatta fare quella radio, la prima volta ci ho speso i soldi per la modifica, poi non mi piaceva perché non spingeva, cioè con 2 watt andava intorno agli 8-10, non superava gli 8-10. Allora mi ha detto rimandamela indietro che ti faccio un'altra modifica, oggi peso la chiedina e gli ha messo questa bobina con questo altro finale per farlo a tipo doppio modulatore. E con 2 watt andava intorno ai 18 modulati, fatelo conto, 16-18 watt modulati. Ma adesso, cioè, da Sassari, io che devo arrivare, manco 9-10. Guarda un po' Massimiliano, ci sono pronto. Ah, gira, metta manetta, tanto non succede niente, ma devo andare, non si scoppia. Allora, devo girare il senso orario, giusto? Beh, certo. Tutta manetta, dall'inizio. Prova a chiuderla. Aspetta, guarda, 1, 2, 3, 4 e 5, ora. Tutta chiusa adesso. Adesso è tutta chiusa. Oh, è stata frugata quella radio. Mettila tutta al massimo, ma quella radio è stata frugata forte. Guarda, adesso è tutta al massimo. Io non gli ho fatto niente. Io sto solamente cercando di capire che malanno li abbia presa questa radio. Perché l'ho lasciata ferma un po' di tempo, sai che pesa qua a casa, senza neanche lasciarla chissà dove, dentro l'armadio. Vado a riprenderla un giorno, morta. Oh, ascolta, e poi che trimmer ci sono lì da... trimmer quella non è lì vicino ai finali, giù. No, sempre questi trimmer così c'ha i classici, cioè questo il RV103 mi sembra come sigla, e l'altro che adesso non lo vedo. Oh, è strano perché quella radio è il doppio proprio. Ascolta, Daniel, i watt, prova a chiuderli del tutto. Aspetta, guarda, ci sta un'eternità a scendere quando chiudo il watt. Adesso è 3 watt, quasi 3 watt e mezzo, dai, portante bianca. Adesso ci sono i picchi positivi però. Me ne accorgo. Guarda, così arrivo anche 3 watt potente bianca e 5 modulati. No, oh, lì non c'è il finale, partito. Perché è proprio un balestrano, non deve andare così con la radio. Però la radio, diciamo che adesso è meglio, eh. Sono i watt tutti chiusi, tanto è lo stesso segnale, però ci sono i picchi positivi, vero qua? Sì, alla grande. Guarda, se lo strumento, questo segna giusto, io sto viaggiando 3 di portante fissa e 5 modulati. Radio modificata, beh. Beh, non li puoi aumentare appena, metterne i 5 di portante muta, vedere se te ne dà di più. Aspetta, Guarda, adesso sono 5, no... Meglio sale a 5 e a 6 adesso. È impossibile perché hai aumentato il segnale qua. Ah, non lo so, claro. Questo così mi sta dicendo, così ti sto... Sono alla scala 10, pensa tu. Ascolta, Daniel, parlo ascolta, lo senti? No, Massimiliano, non mi sta funzionando nulla. Se non funziona il parlascolta non funziona neanche il beep. Infatti, ascolta a me. Guarda che dentro, vicino alla scheda a colto, dove toccato, dove c'è il trasformatore, c'è un trimmer nero e al centro è bianco, grande. Allora, qua c'ho 4 trimmer, sono tutti blu. Lascia perdere sopra la scheda, mi. Io non sto parlando sopra la scheda a colto. Ma sotto mi ha detto? Io sotto a fianco. Aspetta, devo svitare nella scheda a Colt. Sei un casino, Ma Cilia Pro l'ha fatto anche a me. Il 48 che poi io avevo dato a Ramonai, ma Giampaolo se la conosce molto, adesso ce l'ha già nel dischetto praticamente. Lo stesso, l'avevo tolto all'armadio, non lo stavo usando, lo attacco. Gli bacio la garamita e non funzionava. Ha giù tutto un colpo e si è ripreso. Ma a me non me l'ha mai fatto, Cla, non lo so. Non te lo so dire. Adesso io, per esempio, fatti il conto, questa radio che sto usando adesso, Cla, era ferma un anno e mezzo, perché da quando ho tolto l'escavatore non l'ho più attaccata. L'ho attaccata ieri o avantieri. E bene andate. Adesso si è ripreso anche lo Smith, dov'è? Sì, perfetta, però la mia domanda è questa, tu che sei un po' più esperto. Non è che l'ANA 48 col sistema magnetizzato, no? Nel senso che tu devi passare la calamita e si deve attivare il sistema Colt. Non è che si smagnetizza questo sistema, Massimiliano? Una domanda così da imbecille. Oh, claro, un relè mio è quello che attiva con la calamita. Se tu le togli la mascherina, lo vedi anche, è un relè piccolo piccolo. Quando passi la calamita si attiva questo relè. Quando si pure sia quello. Aspetta però, vediamo un pochettino. Vabbè, Daniele, tra l'altro è il tuo trimmer. Allora, qua non c'è più nessun trimmer sotto. Né sopra, né sotto, nella scheda colta non è più nuda. Non è più nuda? E il parlascolta come lo regoli, scusa? Qua io parlascolta regolabile non ne ho, Massimilia. Come non ne hai? All'interno ci deve essere per forza il trimmer. Se no, come ti fai a tendirlo, scusa? Daniele, ci deve essere perché ce l'avevo anch'io, ragione Massimiliano, perché allora l'hanno toccata. Io ho 4 trimmer, quelli regolabili, sopra la scheda, sotto non c'ho niente, e se l'hanno messo da qualche parte qua, me l'hanno modificato qualche altra cosa, non lo so io di questi trimmer qua. Aspetta un attimo, Claudio, tu c'hai il numero di Daniele, è vero? Ma lo mandi che il numero di Daniele? Che gli faccio uno squillo, me lo memorizzo e mi mando una foto WhatsApp. Sì, aspetta. Daniele, mi faccio mandare il numero da Claudio e poi io ti faccio uno squillo, così me lo memorizzo il tuo numero e tu mi giri una foto WhatsApp, io voglio vedere cosa c'è. Va bene, no problema. Dove passi la calamita, tanto... Dove aggancia la calamita è al centro della mascherina, mi sale un colpetto. Lo so, l'ho già controllato anche quel sistema, Massimiliano, che c'è quella specie di contatti, diciamo, dai. È tipo un relè, dalle un colpettino anche con la mano. L'ho fatto già gli altri giorni, poi si è ripresa da solo. Dici, si prende da solo questa radio, dopo un po' che moduli si riprende, ma la sorte sia. Sta andando solamente il relè e si sente lei che aggancia nella scheda. L'altro lei che c'è dentro o sta andando? Daniele, 162 finale, no. K. Ok, te lo sto mandando su WhatsApp, ma sì. Ehi, io le faccio lo squillo. Il mio Daniele, quando ti faccio lo squillo, 4 lo 6 finale. Va bene, aspetta che vado a prenderlo. KK, che così poi mi fa la foto, Claudio, voglio vedere come è combinato dentro con la radio. Ascolta Massimiliano, a te ti risulta 16-11-2008? Quando? 16-11-08. 08? Sì. Ah, ok, dai. Aspetta, vado a prendere il telefono e ti mando le foto. Ok, là, che mi è arrivato il messaggio. Dice la Venduccarda, perché io mi ricordo che appunto c'era un trimerino, me l'avevi regolato tu, perché a casa mi fischiava, me l'avevi fatto regolare. E c'è un trimerino a fianco alla scheda Colt, un trimerino per regolare il parlascolta, me lo ricordo perfettamente. Figlia, sai che le faccio lo squillo così si memorizza il mio numero? Ok Daniele, uno squillo te l'ho fatto, poi chiama al di culo che c'ho. Sto composato il Sciacatri e tu sei la valla. Invece vedi se funziona l'eco qua. Ora. Ah, questo c'ha la regolazione del tono, là. Guardala così, com'è? Maledetto, andato adesso. Eccomi! Daniele, guarda, 416 finale, ti ho mandato il numero mio. Aspetta che guardo, aspetta un secondo, guardiamo, su WhatsApp? Ehi, a MotoZap, Non è arrivato ancora niente. Aspetta, faccio un po' di pulizia qua. Connessione c'è. Aspetta a vedere. No, non è arrivato nulla, no, Massimiliano. E ci ho fatto lo squillo. No, non ha squillato mai il telefono. Oh, io mi ho memorizzato il numero che mi ha mandato Claudio. 346? Sì, 1, 6, 2 finale. E 35 dopo? Giusto, Guarda, te lo dico, 346, 35, 42, 1, 6, 2. Beh, io ti ho già fatto uno squillo, aspetta, ne faccio un altro. K. Ti lascio in diretta, allora, vediamo un po'. No, mi lovi. A posto, là. Aspetta, memorizzo. Memorizzami e mi mandi una foto dell'interno di quella radio. Voglio vedere una cosa. Come ci manca che pizza. Questa è la prima volta che mi capita, io l'ho aperta, l'ho preso la raniere, stava funzionando bene, la usavo qua, la usavo, poco e niente, è solito in questo periodo che sono attaccato a questa. Quella di chi era? Di Daniele Motrice? K. Guarda, io quella radio l'ho comprata, originale, stava non mi lamento, se era già anni o più lungo. Mi sembra che sia quella radio, no, neanche la radio, quella radio l'ho comprata originale da fuori, originale, l'ho mandata a modificare, l'ho tenuta forse un anno e mezzo, e poi l'ho venduta a Daniele. Esatto, io l'avevo comprato da chi? Originale l'avevo preso io, a Gigi l'ho fatto modificare da Marcone. No, io la radio da Gianni l'ho comprata. Allora, la radio l'avevo comprato da Gianni, l'avevo fatta rifare perché lui l'avevo presa da Gianni e l'avevo venduta a Marco Ciro, quello che lavora con Coso, con De Marchis, in capo a Florina. Sì, ma quella che tu hai preso da Gianni era già modificata e l'hai fatta rifare tu, quella lì è? Sì, una l'ho comprata modificata e l'ho fatta tutta rifare a fine mia piazia. Esatto, ed è quella che avevo dato la prima io a Gianni. Poi io ne ho comprato quella di Gigi, che ne aveva due, era di Piero Romattone, ed è quella che sta usando Gianni di schietto. Sì, mi ricordo, mi sarebbe bruciato così così in quanto la vaga sotto. Ehi, è una stagione varia. Aspetta che guardo le foto che mi hai mandato. Come me l'hai detto tu? Metti i vatti così, metti i vatti colà, fischia, cazzo di bruciato, cazzo di bruciato, cazzo di teso, pum! Il telefono scarso? Mica sta funzionando adesso e si è ripreso. Addirittura la scheda ce l'hai in mano, vattelo contro. E allora c'è qualche falso contatto, Massimiliano. Cioè, ma come fa scheda? Così in mano ce l'hai, Daniele. Eia! No, vabbè, l'ho svittato adesso, Massimiliano, come mi hai detto di toccare quel trimmer che lo stavo cercando. Adesso come sono andato a fare la foto, che è andato in trasferenza, il telefono si è ripreso. Hai capito, Massimiliano, che cos'è? È il relay che non sta funzionando con la calamita, cambia calamita. No, non è fatto della calamita, no. Il problema, lo sai che cos'è qua, Daniele, te lo dico io. Allora, gli hanno tolto il trimmer del parlascolta e gli hanno messo una resistenza al posto del trimmer, capito cosa hanno fatto? Ecco perché tu non ti puoi regolare il parlascolta. Il classico parlascolta gli hanno fatto, no Massimiliano? E allora, guarda, allora, la foto che mi hai mandato, la prima che mi hai mandato, se tu guardi bene dove c'è il filo giallo, guarda che c'è, è ricoperto da, come si chiamano, quella gomma che riscaldi con l'accendino e si chiude, poi c'è una lenticchia alla fine. Ma c'era la che? No, là, è quella gomma che scaldi con l'accendino, che ha quella gomma autoristringente. Lì dentro c'è la resistenza, guardami cosa hanno infatto, chissà che hanno fatto il suo travaglio. Ehi, c'è la resistenza, la lenticchia sotto. E poi l'altra è sopra. Quasi si riesce a farmela meglio lì vicino un'altra foto, c'è il telefono mezzo bidone però. Aspetta, sto facendo anche da vicino. Aspetta, ecco, ho fatto. Riposizionato la scheda al posto suo. Io infatti qua ce l'ho aperta per questo motivo, perché ho visto che stava funzionando, vabbè, domani me la chiudo. È ripresa a funzionare dopo una settimana, neanche stavamo iniziando a modulare tutti assieme. E tra l'altro si è ripresa. Adesso lì ripiazzo tutto e lei sta andando. E invece già dopo riprovo, dopo qualche giorno, di nuovo morta. Oggi di nuovo morta. Domani Massimi mi porterà un 14 a vedere. Sta studiando Massimiliano, deve essere. Piazzata la scheda. Ehi Acra, tutto piazzato, te l'ho detto, ma ti devi essere spostato. Secondo me è relè. Secondo me è relè. Ha fatto da magnete, come hai fatto la foto, che ti sei avvicinato col telefonino, ha fatto la magnete ed è partita. Secondo me è la calamita che non sta funzionando. L'attivazione del relè. Sai cosa volevo fare io? Io volevo togliere questo sistema della calamita, unire due fili che fanno il contatto, e se adesso sta funzionando a zero, ecco, non c'è, sta funzionando a zero, provo a disattivare quel pezzo. Ma fatelo magari fare da Massimiliano, che è più pratico, perché lì si potrebbe fare anche l'altro sistema come volevo fare io, poi invece l'ho venduto, lasciato stare, disattivare l'attivazione con la calamita, mettere un interruttore, capito? Per attivare il sistema delle colt. Anche qua. Anche quella è un'ottima soluzione. Di Massi. Scusate, ero al telefono con quello là. Soldi ne hai. Per che cosa? E la mandiamo insieme alla mia a farla controllare. Beh, a quanto ci vuole Massimiliano per ripararlo? Vediamo. Per me ci vuole una mezza minchiata, per me ho 20-30 euro te ne esci, per me. Anche di meno forse, boh. Il problema è qua in Sardegna, non è lontano, è a Boro, Ah, va bene. Basta che non si aspira il continente, perché sono un po' da prendere con le pinze, perché poi quando te lo riportano magari prende i colpi a destra e a sinistra e sei nuovo punti a capo. No, già c'ho amici anche in continente in gamba che le sistemano, però possiamo mandarla qui, io c'ho una radio che lo stesso modificato e non parte, capito? C'ha la ricezione, però in trasmissione non ci va, quindi la devo mandare a controllare. O le facciamo un pacco, o se no una domenica mattina, vedo, diciamo che a Crave, facciamo una passeggiata e gliela portiamo. Ami che vivo ne manco mezz'ora andare a Boro, ma io, ma cosa la devi spedire? Tu lo chiami, ci posso venire a portarti due radio a controllarmi? Ma se lui dice sì, ok, gira il giorno e l'ora e noi andiamo e gliela portiamo. L'ora ci vuole mezz'ora, proprio così. Andare a Boro, e cosa ci vuole Massimiliano? E fai un'ora andare, un'ora a tornare? Ma io un'ora vado a Rissano, ma buffo, sì. Danilo, Danilo, ci organizziamo presto, scendiamo e gliele portiamo. Eia, si può fare allora, quando vuoi, te me lo dici. Sì, appena, adesso lo sento. Lo sento, è così quel parlo ascolta, lo sai cosa facciamo? Del tuo, della radio tua? Te lo fai mettere dietro, ti fai mettere un pomellino ti fai mettere e te lo fai regolabile, in modo che non stai lì, sai, secondo come usi il parlascolta, ti innesca, vedi, io ce l'ho frontale, guarda, sì. No, me lo regolo così e non fischia più, se no ogni volta devi aprire il baracchino, regolare, fare, capito? Invece anche se te lo metti dietro non ti dà fastidio, te lo puoi regolare esternamente. Su pensare che hai mai dato tu che ho venduto era così Massimiliano, una canonata dentro casa era. Io ce li ho tutti così, allora. Io le radio modificate sono tutte regolabili per l'ascolta, perché se ogni volta ti tocca aprire la radio, capito, per regolare. E questo ce l'ha frontale, le 9 ce l'ha dietro, l'altro ce l'ha dietro lo stesso. Quindi vuole così, vuole. Al limite puoi metterlo anche internamente il coso, dai, diciamo, il trimerino. Però tanto l'ala 48 dietro c'ha dei buchettini, lo metti in corrispondenza dei buchettini, infili il cacciavite e lo regoli. Però è più carino fatto col pomellino, là. Pomellino dietro, poi stavo dicendo Daniele, si può eliminare il sistema calamita, mettere un interruttore per inserire, disinserire la scheda accolta, il sistema accolto. Ma io la verità l'avevo fatto direttamente diretto, non ne fai nulla di chi lo attacca e sacca modifica. Ma infatti Daniele, lo elimini, quando andiamo da quella persona lì, io so dove dobbiamo andare, perché c'ho una radio anch'io da dare una controllata, niente di che, però gliele lasciamo, poi vediamo, magari ce le fa anche subito, però gliele possiamo anche lasciare, capito? Un altro giorno si va e si ritira, se sei a piedi che non hai altri baracchini, me lo dici e te lo do uno io per modulare. No, c'ho il gerello qua, c'ho il gerello, no, modificato, ma c'ho l'altro 48, per quello già non ho problemi. Ascolta, se c'è l'altro 48, attaccalo veloce, lo voglio ascoltare. Aspetta, aspetta. No, capito, perché voglio capire che differenza c'è tra questo e quello. Se ne immagini ci vede con l'altro. Ah, boh, io quello che te l'ho detto, te l'ho letto, no, al telefono. Ma cosa è allucinante, per carità. Te lo sto dicendo, cra, Cosa vuoi dire? No, là, se ti gira il messaggio, stavo rispondendo a quello di Fuggiali, se ti gira il messaggio, sono felice, no, niente, micidiale, già solo la voce ghiacciata in base a lì. Sì, a me lo dico, e lui ci fa vedere, no, ma là, se nel primo messaggio c'è scritto che me l'ha mandato, che è a posto, è contentissimo, voleva capire, finire, vuoi finire, voleva capire che cos'era quell'interruttore, basta. Guarda un po' adesso, ora la cipolla. Aspetta che avete parlato in due. Daniele, forse ti vuole. Daniele. Guarda questa, Massimilia. Questa è meglio. E questa è solamente le solite cose, dai. Non c'ha niente. E quello lì adesso devi fare, quello della volta ti ho fatto fare poco fa, con cacciavite, le apri con la vettina e si è a posto. Però ti devi trovare un microfono non originale, tipo un Midland, un CTE, un MB+4, un MB+5. Eia, quello ce l'ho su, però mi ricordo se ci manca una capsula in quel microfono. Domani quando salgo su da mamma controllo cosa c'ha. Allora, attacco un bel microfonino, questo esce meglio la radio. Questa è nuova. Beh. Quella cosa è? Quella dorata o quella argentata dietro? Questa è argentata dietro. Capito. Magari quella dorata. Sì, anche cosa giamba? Dico alla gente che cambia, dalla dorata all'argentata cambia. Sì, vabbè, la gente dice anche un bel cazzate. Prova a darlo a dei tecnici seri a vedere se cambia. Così inizia a ragionare. Poi quell'altro si è staccato pure il cavetto del 45. Quello che commuta al 45. Ha detto che già mi mazzo. massimo, non minimo. 14 litri. Perché un lignale va da massimo, io ti chiamo minimo. Sì, contento. A 4 canacci ci vedi a fa vendere. E c'ha ragione, no? L'ha voluto provare perché giustamente ci siamo già sentiti un bel po' in propagazione, c'è un amico su Facebook, il suo primo lo c'era la Viagra, questo ci aveva i 190-38, infatti lui si chiama Roberto Mandrake Foggiano 38, capito? Aveva quei turbo stare e aspirava ai pozzolini, la via l'Autospurgo. E invece adesso ha cambiato proprio lavoro, adesso usa l'articolato e fa linea. Ah, ecco, capito, sì, l'ho già sentito, questo Roberto Mandrake sui 45, esce anche molto bene, va anche molto bene, ok. Daniele, alla fine ha ragione Massimiliano, non è che questo si allontana molto da quello Colt, quindi bisogna farlo spingere di più quel Colt, capito? Sì, io non ho giocato, ma se io ti faccio sentire l'87 è Colt rispetto a quello ti metti a piangere. Lo so, Cla, lo so, perché non gira come deve girare. Non gira lunga, non gira proprio lunga. Il 48 si è fatto bene, che più quello che avevo io, avevo Massimiliano, che quello di Gianni gira molto bene, di doppio. Però devono andare così, capito? Io quando chiudevo l'eco e usavo il microfono normale sembrava stavo usando l'amplificato, non si intende nulla, poi chiuso è proprio una radio normale, capito? Ma se le mette in mano quell'amico nostro vedrai che ritorna alla normalità quel baracchino, ci hanno messo le mani, ci hanno messo le mani. Cava, cava. E va bene, questo mi guarda c'ha 5 watt quasi, 4 e mezzo. E vabbè, ma lì le puoi girare quella fettina che ti apre bene tutta la modulazione. Questa non so se la sotto già aperta del tutto, boh, devo controllarla. Se non è aperta la apri, vedrai che cambia totalmente. Kappa kappa. E io non sto usando quello coso così, no, metti l'eco va. Cambio. Vedi come gira bene. E il mio boh, è una cosa allucinante. E questo è fatto dalla stessa mano, dalla stessa persona, tutto rogliere. Si sente la civiglia, si sente, il mio non gira così. Kappa rogliere positivo, No, adesso l'ho tolto. Sicuramente qualcosina ancora c'è sotto, si sente leggero, vero? Sì, appunto. Kappa kappa, ma io sto usando un Midland, io non li uso mai i microfoni originali, perché sono veramente una cagata. Questo è un Midland. Aspetta che stanno suonando il campanello, scusate. Eia. Eia. No, vabbè. Sull'87 io c'ho quello dell'Arma International, che spinge un bel. Però anche quello del suo originale 87 già va bene. Io lo volevo sempre prendere uno non originale, dai, per la macchina. Quando c'avevo quell'altro 48. Poi, non sentivo un periodo che non sentivo più nessuno, ho detto va bene, tolgo tutto e ciccia. Non bisogna mai togliere niente, sempre tutto attaccato. Ogni tanto lo accendi, non c'è nessuno. Ciccia l'importante, con i due grusci, lo attivi, lo disattivi. Come si fa, capito? Non bisogna mai togliere niente, nulla. Io mi ero una settimana, 15 giorni provando baracchini, non è stato la bene a Naccio, e quelli colpi, li ho tutti puliti, fatti funzionare, tenuti in funzione. E ieri ho staccato il superstar perché io non c'ho più posto, da tutto va niente, capito? E se no se avevo l'altra base che l'ho tolta, lì facevo tutti i baracchini, tutti in funzione, con l'alimentatore li avrei attaccati tutti e giorno per giorno li avrei usati, ma siccome ne ho tolto tutto, però li ho provati tutti, capito? Bisogna farli andare, soprattutto quelli modificati, perché basta un po' di polvere, un po' di ossido, vedi, non parte il relè di commutazione alla scheda e la radio non funziona. Lo so, qua lo so, hai visto, si è attivato da solo e non faceva neanche lo stacco quando gli passava la calamita, di solito lo faceva. di solito faceva le volte l'alzata e non partivano le modifiche. Oggi invece ha fatto come la prima volta che l'ho riacceso, dopo quasi un anno che era fermo. Vai, vai Massimiliano, comunque puoi riattaccare l'altro, è meglio chiudi l'altro e fai girare l'altro, questo mettilo a parte, vai Massimiliano. Positivo, dai, oh ragazzi, è arrivata Gaglietta, Daniela, al limite, no, dopo no, perché non riattacco più, là. Vi lascio, Daniela, e poi già ci aggiorniamo tra Claudio e cose, ci aggiorniamo, ci facciamo una scappata, lo portiamo, ci abbiamo in Napoli. Buonasera. Ehi, aia, avanti, buonasera, chi è? Walter? Madonna, lo Smith l'ha tirato quattro volte. Ciao, buonasera, e anche tu arrivi forte, è più di 9.40. Ciao Walter, ma aspetta Massimiliano, adesso ci sei tu. Quanto ti sto arrivando a te, Walter? Walter? Massimiliano, 9.40. No, io quanto ti sto arrivando? Vabbè, Massimiliano è 9.30 qua, quindi. Quanto ti sto arrivando io a te? 9.10. Cioè, ma come faccio ad arrivare 9.10 a te, 9.25 a Massimiliano? Non lo so, io ce l'ho smettere di questo baracchino della Icon. Poi, la gioco già c'è da te, non ti preoccupare. È la tua antenna che dice, perché tu se abbassi la potenza, arrivi quanto Daniele, mi hai capito? È perché tu usi 200 watt in quella radio, se la usi a potenza bassa, arrivi Santiago 9. Non so. Ma non è così che funziona, lì c'è qualche problema nell'impianto dell'antenna della 27, perché è impossibile. È impossibile, cioè il segnale mio lì punti è 9.25. E il tuo qua deve essere quanto è quello di Massimiliano se non più forte, invece sei molto molto più basso se usi potenza bassa. Cosa vuoi dire? Che io ho l'antenna alla stessa altezza di Massimiliano. Ma c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non mi convince, sia ricezione che trasmissione, Walter. La potenza bassa, sei troppo basso, troppo, troppo, troppo. Aumenti il segnale quando usi 200 watt della radio, se no sei molto. E poi anche la ricezione tua è scarsa. Massimiliano ti arriva a 9.40, ma stai scherzando, ve l'hai attaccato. Antonio Pomponio arriva sopra il DB, 9 più 60 più 80, è 9.30 qua Massimiliano, come fate ad arrivarti a 9.40? Non lo so, parla Massimiliano. No, io sto usando 2 watt di portante intorno ai 24-26 modulati. Allora, tu sia in questa radio che nell'altra radio mi arrivi 25, poi, non lo so, io, e più o meno sono alla stessa altezza, forse sono leggermente più bassino io, ma ora sì che c'è qualche corridoio più aperto dalla parte mia, cosa ne so? Sicuramente, sì, 9.38 se non parli, quando parli 9.42. Cioè, te ne riconto, ti devi arrivare a fondo scala pieno, soprattutto con quel tipo di radio, come fa me Antonello, con che ce l'ho più o meno, siamo alla stessa distanza che tu c'hai Massimiliano. Qua Massimiliano è 9.25 con un picchio a 9.30, ma quanti chilometri ci sono di distanza? Tu ce l'hai un tiro di schioppo, le dai 9.38, 9.42, capito Walter dove? Lo volevo dire l'altro giorno, lì bisogna rivedere l'impianto della mantova, perché non mi convince. Vai Daniele a salutare Walter. Eia, salutoni Walter, ben sentito, cordialità. Ciao Daniele, basso basso, no, quasi non lo sento io Daniele. Tu come lo senti Massimiliano? Sì, io lo sento, mi arriva Santiago 6 a me, però la radio è un po' bassina. Allora, no, vabbè, Walter qua è al DP proprio, oltre il DP, quindi sullo smitter di radio professionale sarà oltre 9.60, credo. Credo, Vai, vai, poveri. Sto usando un 4005, un Tornado. Però c'ho anche l'S9, Claudio, mi arriva uguale. Sì, ma lo smitter non è preciso. Può essere, può essere. Va bene, dai signori, io vi lascio che qua c'è già casino, mia moglie, mia figlia, sono facendo casino. E quindi stacco, dai. Ci sentiamo, ciao Walter, ciao Claudio, Daniele e tutti quelli che ci sono all'ascolto. Ciao! Ciao Massimiliano. Ciao Massimiliano, le prossime, dai, sentite anche la voce di Luca. Luca Cuocuomane, ci sentiamo Massimiliano, sì Walter, c'è qualcosa, ma dall'altro giorno, perché avevo già 5 dB in più a Giulio, da Giulio, 9.15 tu 9.10, è un rapporto che non mi convince, ma anche per essere precisi, capito, soprattutto non facciamo le prove. Perché tu qua devi arrivare molto più forte, perché se Massimo arriva a quel segnale tu devi arrivare quanto lui, alla stessa potenza, invece tu arrivi quanto lui con 200 watt, c'è qualcosa che non mi convince, vabbè. Avanti Luca. Sì, ciao dai, ciao Massimiliano, ciao la buona anima di Walter, ciao Daniele, ciao Claudio. Mi sono orientato a fare un lavoro, dai. Magari se rimanete ancora qualche passaggio lo faccio, se no mettetevi salutati, che devo riparare un computer. Ciao Lugarie, no, io adesso già quasi pronto, sento il profumino di cera. Siamo 9:20 passate, adesso spengo tutto e me ne vado a pappare. Va bene. Ok Walter, dai, si è entrato tardi oggi. Io vi saluto e vado a cenare. Ciao Daniele, Walter, Luca, Massimiliano e chiunque fosse in ascolto qua sul canale 10, dai. E prendi tu Walter. Sì, il mio segnale, ciao Luca, ben sentito dopo tanto. Ovviamente è colpa mia perché non sono sempre presente qua. Com'è il mio segnale qua da tecla? 9:20? Così con la potenza della radio, perché oramai ho visto i passaggi che fai. Sei 9, neanche 25, neanche 9:25 sì. Cioè praticamente sei quanto è Massimiliano usando lui 20 watt e tu 200. Se tu mi abbassa la potenza, tu dico perfetto, prova. No, non hai abbassato un cacchio. A zero? No, la potenza devi staccare, devi mettere la radio normale. Guarda un po'. Santiago 9, stai arrivando, quanto è Daniele? Ma l'hai mai controllata questa antenna? Ma quale stai usando? Quella che è nella casa piccola o nella casa grande? No, nella grande, ma ce ne ho tre, sono tre uguali qua. Ma c'è qualcosa Walter, è impossibile, io ti vedo, vedo Massimiliano, è impossibile Walter, ti ho seguito con i baracchini quando fai le prove sul 20 e hai lo stesso segnale, Santiago 9, quando poi attacchi arrivi 9:20, 9:22. Non lo so, scusami, è così. Non mi metto neanche il problema tanto. No, oh, un problema, non c'è una cosa di una frutta, noi siamo importanti e ci sentiamo. Però anche sulla ricezione, non sei preciso, perché anche l'altra volta lo stesso, facendo le prove con Marco, c'era qualcosa che non mi quadrava, e adesso me ne sono accorto, è la realtà. Cioè su tre antenne sono tutte e tre uguali, allora è proprio come sono posizionate, non lo so, però il tuo segnale è liscio, è molto molto basso, è molto basso qua, ma anche da Massimiliano, cioè ricevi a Massimiliano quanto è 15 dB in più di me che ce l'hai attaccato, è impossibile. 9:42, non lo so. Bisognerebbe avere un commutatore e provare a fare in Mantova 1, ma da qui non fa. Se me lo metto una schioppettata uscivi da lì. E vabbè, comunque, ci sarà modo mai per io estivo di controllare queste cose. Adesso ci rilasciamo. Va bene signori, dai, io vi risaluto. Daniele, riprendi tu con Walter, se vuole rimanere io vado che pronto la cena, mi sta già chiamando Anna. Ciao a tutti, buon fine serata e alle prossime, ciao! Ciao Cla, buon proseguimento e buon tutta, ci ascoltiamo domani se coincide. Riprendi Walter. Oh Daniele, cosa rimango con te? È una fatica a sentirti, non ti sento proprio. Arrivi 4, modulazione appena comprensibile. Macello, ciao Cla, tu anche io, non ho voglia di rimanere. So che sonno, dormito poco stanotte. A domani. Ciao Daniele. Ciao Walter, qua con 6-9 di segnale comunque. Va bene, alle prossime Walter, se coincide a domani, dai, ciao. Grazie, ciao Daniele. Ciao Walter, dai. Comunque a me arrivi forte, adesso ti sei abbassato un po' di segnale. Ciao Claudio, ciao Daniele, anche da me, Daniele, arrivi bene, dai, segnale 9. Dai, alle prossime. Ciao, buonanotte, buona cena, ciao. È così che arrivo forte Luca, non so, così è aumentato. 9:25, radio 5, a bomba. Sono a San Giovanni, lontano. Sì, le balle c'erano. Se ti vede Luca, vuoi vedere, io ho 20 watt col 440 più 200 e Luca sente a me, non a te. C'è qualche problema, Walter, c'è qualche problema. Sei a Sassari, tu sei a 3 km in aria, io sono a 29, come minimo sono a 8 km da Luca, minimo, no, forse più. Ma Luca è davanti a te. Luca è davanti a te, è micidiale la zona di Luca per i punti, ma stai scherzando? Io sono a San Giovanni. La San Giovanni la spunta, cosa c'è, cazzo? Io, cosa c'è? Oh, un abisso. A parte che c'è la collinetta, qui sono a 80 metri, i punti sono a 140, tanto per farti capire. Se parlo dai punti ti spacco tutto, è una vista ottica, da qui non vedo niente. No? È vero, cazzo, è vero, Walter, è vero, minchia. Cioè, ma guarda, mi sto rincoglionendo, è vero che sia a San Giovanni, ecco dove è la differenza delle antenne. Ecco dov'è la differenza, hai pienamente ragione. Minchia, ma c'è una differenza assurda. Sì, un abisso. Quando vado ai punti vi sento tutti 9.30, 9.40, tutti così. Ma qua no, ma qua soffro molto, lo sto dicendo. Poi Massimiliano è vicino a me e i segnali più o meno sono qui. Sì, mi ricordo, eri ai punti un giorno e mi avevi dato 9.30. Sì, è lì che mi sto inceppando io, infatti non capivo, ecco, ma come prima 9.30 sono le 10. Sì, è San Giovanni, hai pienamente ragione, sì, scusa, è così. Minchia, una differenza allucinante, cioè. Arrivi 9.25 quando dai un po' più di potenza. Ma minima potenza quando sei con i baracchini, che provi i baracchini, se non è un aiutino arrivi a Santiago Nofre. Non so, Luca, da te Claudio quanto arriva? Claudio è 9.30, dai. Siete troppo vicino. Dobbiamo fare la prova con promotore, sono Santa Teresa di Gallura, verso Santa Teresa arrivo benissimo. Beh, normale, ma anche da Sosso scendo lì, lì per Alghero sei ancora peggio di punti, sì, minchia. Vabbè, dai, ma fatti dimmi, basta, ci sentiamo, più che sufficiente. Anche Luca 9.30, lo stesso qua, 9.30, dai che è pronta la cena. Ciao ragazzi, buona cena a tutti, ciao Walter, fatti sentire un po' prima, dai, la sera se ne hai voglia già, noi siamo sempre qua sul 10. Ok, un abbraccio a tutti, a domani, ciao. Ciao, buonanotte. Ciao, anch'io chiuderai. Ciao Lucari, alle prossime. Ciao Luca, ciao Daniele, ciao a tutti. Ciao. Oh Daniele, beh, la graduatoria. E quale graduatoria, Lu? Si è fatto la prima domanda. C'è qualcosa, si è uscita? Non so niente, no. Ho fatto cittadinanza e adesso fai la domanda per questi corsi di formazione che stanno facendo. Ho capito, andate. Poi è tutto da vedere, anche lì fa una graduatoria, c'è anche rock and roll, dai. E poi il 5 di aprile scalo. Ho capito, vabbè. Però quello l'ho fatto anch'io, ma a preferisco che mi chiamavo lì. Che almeno i soldi li vedi tutti. Dipende, anche se una guerra persa lì ai cantieri. Fate quello, vabbè, comunque. Tentare la nuoce, c'è lui, prima o poi, cazzo, hanno già per tutti la ruota. Quello è poco ma sicuro. Va bene. Ok, dai Lucaria, io chiudo che qua, se no mi tirano le pietre a testa tra un po' se non scendo. Via, ciao Daniele, a domani, alla prossima, ciao. Via, dai, se vuoi entrare domani, già ci siamo. Via, va bene. Ma dove sei, a tua madre? E allora, là ha attaccato tutto. Ma non stai abitando di là? Ah vabbè, io vado via mezzogiorno da qua, e scendo giù, e adesso sono rientrato prima perché ho un lavoro da fare. Ah, ho capito. Ma di là non ti ho mai sentito modulare. Ehi, vabbè, non esco bene, esco basso. Non te la puoi mettere un'antenna di là. No, lascia perdere. Ehi, va bene. Meglio di qua, là. Lo so, qua già va bene ancora, l'antenna c'è. Funziona bene, tutto bene. E poi vediamo. Beh, io sto usando un arringo messo in qualche maniera, lui. Ma dov'è? Ehi. Va bene, ma non benissimo, perché se quando siamo qua in zona tutto va bene, ma vedi Massimiliano, Valle sentono bassi, Sorso non mi sente quasi nulla, però io riesco a riceverli bene, capito? Sì, vabbè, interessante che ti ascoltano, io ti ascolto bene, a voglia. Un segnale 9, radio 5, purtroppo, cioè, ti va a contentare, la mano l'avevi staccata se non sbaglio, no? Eia, la sensazione del chiribizzo, guarda, faccio quello che devo sempre fare, lì. Scala aerea, un palo, circa ballate, stiamo salendo. Anche? Lo fai una volta e poi quando ne scende lì, Lu. Nuovo giro, nuova corsa, boh, tutto risolto. Già lo so, vabbè, da niente, io mi travagliava, devo fare dei passaggi. Va bene, Lugarie, dai. Ce l'ascoltiamo le prossime sequenze, dai. Buon fine serata e buona carica. Ciao ciao. Ciao Daniele.